Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Lev Tolstoi. Alyosha Bricco. Alyosha era il fratello minore. L'avevano soprannominato Bricco perché la madre l'aveva mandato a portare un bricco di latte alla moglie del diacono e lui era inciampato e aveva rotto il bricco. La madre l'aveva picchiato e i ragazzi avevano cominciato a canzonarlo chiamandolo Bricco. Alyosha Bricco, così gli era toccato in sorte quel soprannome. Alyosha era piccolino, magretto, con grandi orecchie a sventola. Le orecchie sporgevano come ali e il naso l'aveva grosso. I ragazzi lo canzonavano. Alyosha ha il naso che sembra un cane su un poggio. Al villaggio c'era una scuola, ma Alyosha non era portato per lo studio e inoltre non aveva nemmeno il tempo per studiare. Il fratello maggiore viveva in città, a servizio da un mercante, e Alyosha, fin da bambino, aveva cominciato a dare una mano al padre. Aveva appena 6 anni e già, insieme alla sorellina, sorvegliava la pecora e la mucca al pascolo. Quando divenne un po' più grandicello, cominciò a badare ai cavalli, sia di giorno che di notte. A partire dai 12 anni già arava e guidava il carro. Forza non ne aveva, ma aveva destrezza. Era sempre allegro. I ragazzi ridevano di lui e lui taceva, oppure rideva. Se il padre lo sgridava, lui taceva e ascoltava. E come smettevano di sgridarlo, sorrideva e metteva mano alla prima cosa che aveva da fare. Alyosha aveva 19 anni quando suo fratello andò soldato e il padre sistemò Alyosha al posto del fratello dal mercante come custode. Ad Alyosha vennero dati i vecchi stivali del fratello, il berretto del padre e un gabbano e lo portarono in città. Alyosha non riusciva a saziarsi di rimirare il proprio abbigliamento, ma al mercante l'aspetto di Alyosha non piacque per niente. «Pensavo che al posto di Semen m'avresti procurato uno come si deve», disse il mercante dopo aver squadrato Alyosha. «Tu invece mi hai portato un moccioso. Che me ne faccio?» «Tutto sa fare. Ti attacchi i cavalli, va dove lo mandi e lavora sodo. A vederlo sembra un fuscello, ma è di fibra forte». «Vabbè, vedrò. E soprattutto è docile, ha una gran voglia di lavorare». «Che cosa vuoi che ti dica? Lascialo pure qui». E Alyosha cominciò a vivere dal mercante. La famiglia del mercante era piccola, la padrona, la madre vecchietta, il figlio maggiore sposato a cui avevano dato un'istruzione alla bella e meglio e che era in affari col padre, e l'altro figlio che invece aveva studiato, aveva terminato il ginnasio ed era stato all'università da dove l'avevano cacciato e adesso viveva a casa e poi c'era ancora una figlia, una studentessa di ginnasio. Da principio Alyosha non era piaciuto. Era molto grossolano, mal vestito e maleducato, dava a tutti del tu, ma in breve si abituarono a lui. Lavorava sempre meglio. Docile lo era davvero. Qualsiasi faccenda gli dessero da sbrigare, lui faceva tutto di buona voglia e rapidamente e passava senza sosta da una faccenda all'altra. E tanto in casa che in bottega finiva sempre che era Alyosha a far tutti i lavori e quanto più faceva tanto maggiore era la quantità di lavoro che gli pioveva addosso. La padrona e la madre della padrona e la figlia della padrona e il figlio della padrona e il commesso e la cuoca tutti lo spedivano ora qua ora là, lo costringevano a fare questo e quello. Non si sentiva altro che «Corri, fratello!» oppure «Alyosha, sistema un po' qua!» «Cos'è? Te ne sei dimenticato, Alyosha? Guarda di non dimenticartene, Alyosha!» E Alyosha correva, sistemava e controllava e non si dimenticava di niente e faceva in tempo a fare tutto e sorrideva sempre. Ci mise poco tempo a sfondare gli stivali del fratello e il padrone gli diede una lavata di capo perché se ne andava in giro con delle pezze di feltro sugli stivali e con le dita dei piedi nude e comandò di comprargli un paio di stivali nuovi al bazar. Di quegli stivali nuovi Alyosha fu tanto contento, ma le gambe erano quelle di sempre e a sera gli dolevano per il continuo andare e venire e lui si stizziva con le sue gambe. E poi Alyosha temeva che il padre, quando sarebbe venuto a ritirare i soldi della sua paga, si sarebbe risentito con lui al sapere che il mercante gli aveva fatto una trattenuta per gli stivali. D'inverno Alyosha si alzava prima dell'alba. Spaccava la legna, poi spazzava il cortile, dava da mangiare alla mucca, al cavallo e li portava la beverata. Poi accendeva la stufa, puliva gli stivali, gli abiti dei padroni, scaldava i samovar, li ripuliva. Poi o il commesso lo chiamava per scaricare le merce, oppure la cuoca gli ordinava di impastare la pasta o di pulire i tegami. Poi lo mandavano in città, ora a consegnare un biglietto, ora al ginnasio a prendere la figlia del padrone, ora a comprar l'olio per le lampade per la vecchietta. «Dove sei andato a finire, maledetto?» gli diceva ora l'uno, ora l'altro di quelli di casa. «Perché dovete andarci voi? Lasciate che ci faccia una scappata Alyosha!» «Alyosha? Ehi, Alyosha!» E Alyosha correva. Faceva colazione di corsa e raramente finiva in tempo a pranzare insieme agli altri. La cuoca lo sgridava perché non arrivava mai insieme agli altri, ma poi ne aveva compassione e gli teneva sempre qualcosa in caldo, tanto per pranzo che per cena. Di lavoro ce n'era tanto, soprattutto nei giorni prima e durante le feste, e Alyosha era contento che ci fossero queste feste, specialmente perché ad ogni festa gli davano qualche mancetta, e anche se era poca cosa, riusciva a racimolare una sessantina di copechi, e si trattava comunque di soldi suoi, poteva spenderli a suo piacimento. La paga non la vedeva nemmeno. Veniva il padre, la ritirava lui dal mercante e si limitava a dire ad Alyosha che quegli stivali là aveva fatto troppo presto a sfondarli. Quando con quelle mance Alyosha ebbe messo insieme 2 rubli, su consiglio della cuoca si comprò una giubba di maglia rossa e quando con l'ebbe indossata non poté trattenere un sorriso di contentezza. Parlava poco Alyosha e quando parlava lo faceva sempre a scatti e brevemente. E quando gli ordinavano di fare qualcosa o gli domandavano se poteva fare questo e quello, allora sempre senza la minima esitazione diceva «Tutto si può fare». E sull'istante si precipitava a fare quel che gli era stato richiesto e lo faceva. Non conosceva nessuna preghiera. Quelle che la madre gli aveva insegnato se le era dimenticate e tuttavia pregava sia al mattino che alla sera. Pregava con le mani facendosi i segni della croce. Così visse Alyosha per 1 anno e mezzo, e poi, nella seconda metà del 2º anno, gli capitò la cosa più strana di tutta la sua vita. Con suo grande stupore scoprì che tra le persone, oltre ai rapporti derivanti dal bisogno che uno può avere di un altro per questo o quest'altra cosa, esistono anche dei rapporti del tutto particolari per i quali una persona non doveva pulire gli stivali o correre a comprare una cosa o attaccare i cavalli, ma lo si mandava a chiamare e senza chiedergli di fare nulla si era gentili con lui e gli si doveva fare delle carezze e questa persona con cui qualcuno si sentiva ad essere tanto gentile era proprio lui, Alyosha. Tramite la cuoca aveva conosciuto Ustinia. Ustinia era orfana, giovane e lavorava tanto quanto Alyosha. Aveva cominciato a provare compassione per Alyosha e Alyosha per la prima volta aveva sentito che di lui, proprio di lui e non dei suoi servigi, aveva bisogno un altro essere umano. Quando la madre provava compassione per lui, lui non ci faceva caso, gli sembrava che così dovesse essere, che era come se lui stesso provasse compassione per sé. Ma adesso all'improvviso aveva visto che Ustinia, pur non essendogli in nessun modo parente, provava compassione per lui, gli lasciava nella pentola la cascia col burro e quando lui mangiava lo guardava con il mento appoggiato al braccio della manica rimboccata e lui le gettava un'occhiata e lei si mette a ridere e anche lui ride. Tutto ciò era così nuovo e strano che da principio Alyosha se ne spaventò. Sentì che questa cosa gli avrebbe impedito di servire come serviva prima. Ma ciò nonostante ne era contento e quando guardava i calzoni che Ustinia gli aveva rattoppati scuoteva il capo e sorrideva. Spesso, durante qualche lavoro o mentre stava correndo da qualche parte, si ricordava di Ustinia e diceva «Ah sì, Ustinia!». Ustinia l'aiutava dove poteva e lui pure l'aiutava. Lei gli aveva raccontato la sua storia di quando era rimasta orfana e di come poi l'aveva presa in casa una sua zia e di quando l'avevano mandata in città e il figlio del mercante voleva farle fare una sciocchezza e di come lei invece lo aveva messo subito al posto suo. Lei amava parlare e per lui era un piacere starla ad ascoltare. Aveva sentito che in città era una cosa che capitava spesso, che gli uomini che facevano i lavoranti si sposassero con le cuoche. E una volta che lei gli aveva domandato se si sarebbe sposato presto, lui aveva detto che non lo sapeva e che non aveva voglia di prendersi una moglie in campagna. «Hai messo gli occhi su qualcuno?» disse lei. «Ma io prenderei te. Mi sposeresti, di?» «Guarda che bricco bricco, ma come sei stato abile a dirla», disse lei, dandogli un colpo con l'asciugatoio sulla schiena. «Perché no?» Per carnevale il vecchio venne in città a prendere i soldi. La moglie del mercante aveva saputo che Alyosha pensava di sposarsi con Ustinia e la cosa non le era piaciuta. «Resterà incinta, con un bambino, non sarà più buona a nulla», aveva detto al marito. Il padrone consegnò i soldi al padre di Alyosha. «Allora, vedete bene mio figliolo?» disse il contadino. «Per essere mite, è mite, sì, ma si è fatto venire in testa delle sciocchezze. Gli è saltato per la mente di sposarsi con la cuoca. E io non ne voglio qua di gente sposata. È una cosa che non mi sta bene». «Ma che scemo, che scemo, ma guarda cosa gli è saltato in mente», disse il padre. «Tu non ti preoccupare, gli ordinerò io di lasciar perdere tutta questa storia». Il padre andò in cucina e si sedette al tavolo, in attesa del figlio. Alyosha era in giro per affari e fece ritorno tutto affannato. «Pensavo che ne avessi di giudizio». «Ma cos'è che ti è saltato in mente?» disse il padre. «Ma niente, come sarebbe niente? Ti è venuta voglia di sposarti. Ti ammoglierò io quando verrà il momento e ti ammoglierò a chi bisogna e non con una sgualdrina di città». Il padre parlò molto. Alyosha stava in piedi e sospirava. Quando il padre ebbe finito, Alyosha sorrise. «Beh, vuol dire che la si può anche lasciar perdere, questa cosa. Ecco, appunto». Quando il padre se ne fu andato e Alyosha rimase solo con Ustinia, le disse... Lei era rimasta in piedi dietro la porta e aveva sentito quel che il padre aveva detto al figlio. «La sua storia non va, non si può, hai sentito? Si è arrabbiato, dice che non bisogna». Lei soffocò il pianto in silenzio, dal grembiule. Alyosha fece schioccare la lingua. «Come si fa a non obbedire? È chiaro che bisogna rinunciarci». A sera, quando la mercantessa lo chiamò per chiudere le imposte, gli disse: «Allora... hai dato retta a tuo padre? Le hai lasciate perdere le tue sciocchezze?» «Ma sì, che le ho lasciate perdere», disse Alyosha. Si mise a ridere e poi improvvisamente scoppiò in pianto. Thank you. Da quel momento in poi Alyosha non parlò mai più di matrimonio con Ustinia e continuò a vivere come viveva prima. La quaresima nel commesso mandò a spalare la neve dal tetto. Lui si arrampicò sul tetto, ripulì tutto quanto, cominciò a staccare la neve indurita vicino alle grondaie, gli scivolò un piede e cadde giù con la vanga. Per disgrazia non cadde sulla neve, ma sulla tettoia di metallo dell'ingresso. Ustinia accorse insieme alla figlia del padrone. «Ti sei fatto male, Alyosha?» «Ci mancherebbe altro, non è mica niente.» Voleva alzarsi, ma non ci riuscì e si mise a sorridere. Lo trasportarono nella portineria. Venne un infermiere. Lo visitò e gli chiese dove gli faceva male. «Mi fa male dappertutto, ma non è mica niente. Basta che il padrone non se la prenda con me. Bisogna mandarlo a dire al nostro Batiushka.» Alyosha restò a letto per 2 giorni interi. Al terzo mandarono a chiamare il Pope. «Ma come? Non mi morirai mica adesso?» domandò Ustinia. «E che? Mica si vive per sempre. Una volta o l'altra bisogna», disse Alyosha in fretta come sempre. «Grazie, Ustinia, che hai avuto compassione di me. È stato anche meglio che non ci abbiano fatti sposare, che tanto non serviva a niente. Adesso va tutto bene così.» Insieme alla Pope pregò soltanto con le mani e col cuore. Ma nel suo cuore c'era la certezza che, come qua giù si stava bene se si obbediva e non ci si irritava, così anche là si sarebbe stati bene. Parlava poco, chiese soltanto da bere e continuava a stupirsi di qualcosa. Si stupì di qualcosa, si protese e morì. Arturo Cirillo ha letto Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce, @rai.it.